Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, tra pochi giorni, sabato prossimo, ricorre il bicentenario della nascita di Vittorio Emanuele II, uno dei protagonisti del Risorgimento, re del Regno di Sardegna del 1849 e primo re dell'Italia Unita dal 1861, sarebbe morto poi nel 1878. Esce in questa occasione un libro di Mauro Salucci, Il Re Giovane, pubblicato da Pacini Editore, 112 pagine, 12 euro, che studia il personaggio che restò segnato da un lato dalle modalità improvvise e drammatiche della sua ascesa al trono dopo l'abdicazione di Carlo Alberto e dal rapporto con personaggi certamente d'eccezione come Cavour e Garibaldi che con lui compirono l'unità della nazione. E Vittorio Emanuele II non può che ricorrere spesso nel libro della storica Arianna Risirota, Risorgimento, un viaggio politico e sentimentale, pubblicato dal Mulino, 278 pagine, 22 euro. È un libro questo importante che considera un periodo un po' più lungo di quello che normalmente associamo agli anni del Risorgimento, perché fa partire alla fine già del Settecento il processo di maturazione di un'identità anche politica della penisola. Un'Italia che ancora non c'era, scrive l'autrice, considerata un oggetto teorico e astratto, solo come unità culturale dalle lontane radici. Tutto si avvia con Bonaparte, che fonda la prima Repubblica Italiana e poi il primo Regno d'Italia, che fu un passo importante per dare il via a una serie di elaborazioni culturali, esperimenti politici, rivoluzionari e controrivoluzionari, che alla fine renderanno l'Italia unita e libera dagli stranieri. E sentiamo dall'autrice come si compì questo percorso. Buonasera ad Arianna Risirota. Buonasera, buonasera e grazie per l'invito. Arianna Risirota, come mai ha sentito il bisogno di parlare ancora di Risorgimento dopo i tanti studi, le tante pubblicazioni che erano state fatte in occasione del 150enario? Beh, questo è un modo per fare il punto sugli studi, appunto, che da circa 15-20 anni hanno rinfrescato, hanno riproposto una rilettura del Risorgimento, ma anche confrontarsi con i grandi giganti della storiografia sull'Ottocento italiano. Dopo tanti studi anche personali su singoli momenti, episodi e figure, ho sentito, e l'editore, un coraggioso editore, mi ha incoraggiata l'esigenza di fare un po' una sintesi con però un'interpretazione critica. Questa interpretazione critica è riassunta nel suo sottotitolo, Un viaggio politico e sentimentale. Come mai questa parola sentimentale, che in fondo è abbastanza strana in un'analisi storica? Beh, intanto il viaggio sentimentale è per antonomasia quello di Laurence Sterne, quello di Yorick, che poi Foscolo riprende col suo Didimo Chierico, ed è il viaggio anche, il Grand Tour nella penisola italiana, perché no, che è un po' all'inizio di questo cammino dall'Italia che non c'è, come scrivo, all'Italia che c'è, che si costruisce. I sentimenti sono dentro la politica è passione, emozioni, è paura e speranze, e quindi ho voluto abbinare la mia formazione di storica della politica ad anche le suggestioni e le opportunità che la storia culturale, la storia sociale offrono per una lettura più completa, più a 360 gradi di questo fenomeno. E che cosa le ha fatto scoprire questa lettura? Ma io mi sono immersa anni fa, grazie a un maestro come il professor Franco Della Teruta, nel processo ai giovani marciniani lombardi, e ho trovato i giovani, ho trovato le passioni, ho trovato le parole che emozionano, quelle di un grande comunicatore a distanza come era allora Mazzini, che dall'esilio però comunicava alla sua rete clandestina. Ho trovato appunto paure, speranze, ho trovato il backstage, il dietro le quinte dell'impresa eroica del Risorgimento, cioè i costi materiali affettivi, le rinunce, le delusioni, e questi sono sentimenti che non hanno tempo in un certo senso. E poi ci sono quelli che lei chiama protagonisti dimenticati o secondari, per esempio i bambini e le famiglie. Qual è stato il loro apporto, diretto o indiretto, al processo del Risorgimento? Beh, basta pensare, ed è una domanda che mi sono fatta ma che non è frequente trovare nei libri, dietro ogni uomo, quella era una società molto maschile ovviamente, come un po' in tutta Europa, dietro ogni uomo che si impegnava, che sceglieva di dare vita e affetti e rischiare in prima persona per un progetto, c'era sempre una donna che poteva essere anche solo una madre, e non è poco, una compagna, una moglie, una sorella, una figlia, e poi questi bambini che vengono con le madri, spesso lasciati soli, gli esuli loro malgrado, non sono mai a casa, e quindi attraverso la lettura di tanta corrispondenza privata ho avuto anche questo squarcio sulla vita più intima e appunto quello che non viene generalmente raccontato, ho provato in sintesi a offrirlo al lettore. E allora che cosa ci possono insegnare le donne del Risorgimento in questa giornata che è stata dedicata alle donne? Le donne ci sono sempre, possono non essere in prima linea nel Risorgimento italiano, nell'Ottocento europeo ci sono casi di donne impegnate, giornaliste, anche combattenti, ma sono ovviamente per le condizioni del tempo numeri piccoli, ma la donna è quella che poi, se il marito è esule e il governo confisca i beni della famiglia, deve darsi da fare per arrivare appunto a fine mese, deve mandare le suppliche al sovrano per ottenere sussidi o grazie al proprio caro, è quella che deve tirare sui figli, è quella che diventa cittadina, lo diventa nel 48, lo diventa con appunto gli anni 50, quando magari boicotta iniziative ufficiali per far capire che gli italiani hanno ormai scelto la loro strada. Quindi le donne ci sono e ci sono sempre state. Nella prima guerra mondiale le donne prendono il posto degli uomini nelle città e la donna presidia casa, ma nello stesso tempo consente che la quotidianità vada avanti, e questo mi sembra molto molto importante. Lei insiste molto nel suo libro sull'importanza di costruire l'opinione pubblica. Come si manifestò questo sforzo negli anni del Risorgimento? Ma in un primo tempo l'opinione pubblica viene costruita essenzialmente nella clandestinità, ed è un'opinione pubblica orientata a progetti di tipo insurrezionale, penso al mondo che io chiamo underground, le società segrete. Questa è un'opinione però che non può manifestarsi alla luce del sole. La grande svolta sono un po' gli anni 40, che preparano diciamo il terreno all'opinione pubblica cosiddetta moderata, e poi il 48, dove esplode la sfera pubblica, esplode la piazza, esplode la strada. Ma è sin dall'età post-napoleonica che c'è bisogno di spazio pubblico, di sfera pubblica. Questa borghesia italiana istruita e che sente i lacci del sistema restaurato ha delle esigenze, ha dei desideri, non ultimo quello di una felicità esistenziale politica, che si possono realizzare solo nella cittadinanza, nelle costituzioni e nelle concessioni di libertà di movimento, di commercio, di pensiero. E quindi questo rappresenta una risposta a chi ha sempre considerato il Risorgimento come un fatto di élite? Dunque, sicuramente ci sono dei registi, se vogliamo chiamarli così, le avanguardie istruite, le avanguardie che guardano alla Francia, all'Inghilterra, che sono consapevoli dei fermenti di questo Ottocento, che è un Ottocento non il solo italiano. L'Italia è una penisola allungata nel Mediterraneo, lo scrivo nel libro, non si può prescindere da questo dato geopolitico che è fondamentale. E questi sono, diciamo, coloro che offrono progetti, offrono visioni, Mazzini in primis, ma i moderati, abbiamo detto, Cavour, che è uomo europeo di grandissima visione. Ma per la società del tempo abbiamo delle fasi, dei momenti in cui i numeri di persone che si mettono in gioco sono molto significativi. La cospirazione mazziniana in Lombardia, nel centro Italia, ormai assodato, ha raggiunto 50.000-60.000 persone, e poi abbiamo sicuramente tutti i processi a catena di politicizzazione che passano di bocca in bocca, di mano in mano, attraverso la stampa clandestina. E poi abbiamo il 48 è un fenomeno chiaramente di piazza, di coinvolgimento anche degli strati popolari. A questo anno, un anno fatale non solo per l'Italia, lei dedica un capitolo e lo intitola Il 1848 dura 3 anni. Che cosa rappresentò quell'anno? Tra l'altro la settimana prossima noi ricorderemo qui a Milano le 5 giornate. Qual è stato il ruolo di Milano nel Risorgimento? Allora, il 48 dura 3 anni perché da storico ho cercato di proporre una periodizzazione che non può limitarsi al calendario dei 365 giorni del 48, ci sono le avvisaglie, cioè il 47 è un anno già di grande crisi e poi c'è il 49 che nel caso italiano vede i due baluardi di Venezia e di Roma, le due repubbliche che resistono finché possono. Milano è sicuramente un laboratorio incredibile, è in fondo ciò che succede a Milano che fa convincere un riluttante Carlo Alberto a proclamare guerra, a dichiarare guerra all'Austria e di ingaggiare questa battaglia. Dice: io praticamente ho due nemici, uno è l'Austria e l'altro è la Repubblica, a Milano soprattutto, Milano che si libera da sola dalla dominazione, dalla presenza militare austriaca e poi il laboratorio di diverse visioni. A Milano arriva in aprile Mazzini e c'è Cattaneo, ci sono i moderati, i democratici hanno a Milano una grandissima occasione che però non si realizza secondo i loro disegni e quindi tutta un po' la penisola guarda a Milano e l'Austria perde Milano come una grandissima ferita in questa visione ancora imperiale che Metternich si ostina, perdendo lucidità proprio alla vigilia del 48, si ostina a mantenere. Grazie ad Arianna Risirota, autrice di Risorgimento, un viaggio politico e sentimentale. Buona serata. Grazie a voi, buona serata. E a proposito del ruolo degli intellettuali, nel libro di Arianna Risirota si fa riferimento a un'istituzione fondamentale della quale a gennaio scorso è stato ricordato il bicentenario della fondazione, ossia il gabinetto Vieusseux di Firenze. E in questa occasione esce il Vieusseux dei Vieusseux, libri e lettori tra 8 e 900, 1820-1923, pubblicato da Polistampa, 190 pagine, 25 euro, un libro molto importante, bello anche per il ricco corredo di immagini che ripropone l'importanza della figura del fondatore, di Pietro Vieusseux, di famiglia di origine ginevrina ma nato a Oneglia, è giunto a Firenze dopo anni di attività commerciale in giro per l'Europa. E quindi Vieusseux non era un intellettuale di professione, ma era molto consapevole dell'importanza della cultura, soprattutto in un paese, in una città come Firenze, in cui lui stesso ammetteva non si leggeva. In quella città addirittura lamentava l'assenza di un circolo letterario che fonderà lui stesso, sia pure con obiettivi meno ambiziosi di quelli che aveva immaginato e ridimensionati dal governo granducale. È sito a Palazzo Buondelmonti, il gabinetto apre il 25 gennaio 1820 e svolge un'intensa attività, rimanendo aperto dalle 8 alle 23 di ogni giorno. L'istituto poi si arricchirà di vari servizi come il prestito a domicilio dei libri, ospiterà personaggi illustri da Dostoevskij a Leopardi, Manzoni, pubblicherà riviste e libri per poi traslocare a Palazzo Feroni nel 1873 e poi finalmente nella propria sede di Palazzo Vieusseux dal 1898. La storia dei Vieusseux e del gabinetto dunque assume un valore particolare e diventa una testimonianza importante dello sviluppo della cultura di un intero paese, non solo di Firenze, dei gusti letterari e culturali della sua borghesia e dei legami con la migliore cultura internazionale. A questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Quale sarà la professione più richiesta in futuro? Quali nuovi lavori 4.0 esistono già? Come ci sono arrivati e dove si sono formati quelli che li svolgono? Sono Anna Marino e con I lavori di domani vi spiego in concreto cosa fanno e quanto guadagnano blockchain designer, strategist, data scientist, ma anche l'enologo o il magazziniere 4.0, tutte le figure più richieste nei prossimi 5 anni, ma che nell'80% dei casi le imprese non trovano. Insieme capiremo il lavoro che c'è e i lavori di domani. In onda ogni domenica dopo il GR delle 8 e i dettagli nella versione podcast su radio24.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di un tema che è molto caro agli appassionati di libri, ossia del rapporto tra testi e illustrazione. Parto con due titoli completamente differenti, pubblicati da due editori diversi, ma affidati allo stesso artista per le illustrazioni, cioè Salvador Dalì, le cui immagini arricchiscono l'edizione di Macbeth pubblicato da Interlinea, col testo originale e la traduzione di Roberto Piumini, 286 pagine, 12 euro. E poi Alice nel Paese delle Meraviglie, pubblicato questo da Morcelliana, 138 pagine, 16 euro, tradotto da Franco Lonati. E naturalmente tanto il dramma sul furio di Shakespeare quanto il classico trasognato di Carroll sono l'ideale perché da lì possa esprimere il tratto visionario, immaginifico e surreale che ben conosciamo. Un altro capolavoro che esce in edizione illustrata è il Dizionario dei Luoghi Comuni di Gustave Flaubert, illustrato per Centauria da Giancarlo Ascari e Pia Valentinis, 120 pagine, 18 euro. Si tratta solo di alcune delle voci di quest'opera straordinaria che dovremmo leggere e rileggere per difenderci dalla stupidità molla principale della storia moderna, come la definiva Juan Rodolfo Vilco nella prefazione all'edizione completa che lui stesso aveva tradotto di Adelphi. Un'altra edizione attuale di questo capolavoro è quella di Rizzoli, tradotto da Gioia Angiolillo Zannino, 116 pagine, 5,90 euro, che è l'edizione dalla quale tratta questa versione, questa illustrata, alla quale le immagini appunto di Ascari e Valentini si aggiungono un impatto particolare. E naturalmente, visti i tempi, non posso esimermi dal citare la voce vaccini, frequentare esclusivamente persone vaccinate. Poi vi segnalo una bellissima novella di un altro grande, Stefan Zweig, il cantore della Finis Austria della civiltà europea, morto suicida in Sud America per la disperazione provocata dal successo del nazismo. Di Zweig, Analogon pubblica L'obbligo, 112 pagine, 16 euro, tradotto da Luca Sanfilippo. Questa è una novella del 1918 che Zweig aveva scritto in Svizzera, dove lo scrittore abitò negli ultimi mesi della Prima Guerra Mondiale, ed è la storia di una coppia anch'essa residente in Svizzera, Ferdinand, richiamato dalla Germania in guerra, e la moglie Paola, che lo tormenta perché non parta. Lei è decisa, lo accusa di debolezza e di complicità col disegno assassino dei militari. Lui è tormentato, come dimostrano queste righe che vi propongo. Vai, disse lei, vai. Che cosa sono io per te? Niente rispetto a un pezzo di carta. Allora parti, se è quello che vuoi. Non voglio, disse Ferdinand battendo i pugni impotente. Io non voglio, ma loro sì. E sono forti, mentre io sono debole. Hanno forgiato la loro volontà in migliaia di anni. Sono organizzati e vendicativi. Si sono preparati e tutto questo si abbatte su di noi come una tempesta. Dalla loro hanno la volontà, mentre dalla mia ho solo i nervi. È una battaglia impari. Non c'è difesa contro una macchina. Se fossero persone, ci si potrebbe difendere. Ma loro sono una macchina, un tritacarne, uno strumento senza anima, senza cuore né ragione. Non ci si può opporre. L'importanza della decisione è poi immiserita dall'ottusaggine della burocrazia con la quale Ferdinand deve fare i conti. Ma questa edizione è particolarmente interessante perché contiene le 10 illustrazioni realizzate per quest'opera da Franz Maserl, un artista fiammingo famoso anche per il suo pacifismo, che espresse in molte sue opere. Maserl, dopo aver letto a casa di Zweig il manoscritto di questa novella, gli chiese di illustrare il racconto, che in qualche misura presentava una vicenda simile a quella di lui, da lui stesso vissuto, quando aveva eccepito l'obiezione di coscienza alle autorità belghe che lo richiamavano appunto in guerra, col risultato di rimanere esule e apolide in Svizzera. E proprio di Maserl, che visse tra il 1899 e il 1972, escono due libri da Feltrinelli Comics. Il primo è Il libro d'ore, 19 euro, un libro di figure del 1926 che si apre con la prestigiosa prefazione di Thomas Mann, che fece la fortuna di questo libro, che era nato, come ricorda Luca Sanfilippo, in edizione limitata di 200 copie. Nacque quando appunto Maserl era in Svizzera e comprende il libro 167 tavole, che sono qua tutte riprodotte. Due infatti erano state successivamente, per così dire, censurate, una perché troppo esplicita dal punto di vista sessuale, l'altra perché troppo irriverente. E queste immagini fanno scorrere con un segno espressionista l'evoluzione e la maturazione dell'artista. Perché Mann si era appassionato di questo libro? perché Masere, le spiega lui stesso, nel libro d'ore ha ritratto se stesso nell'atto di grattarsi la testa, il mento sulla mano, dinanzi alle strutture dell'industria moderna, alle sue infuocate caserme, alle sue gru, agli altiforni, ai mantici, alle trasmissioni, finché in ultimo, colto da un panico misterioso, se la batte a braccia levate e, conclude Mann, l'arte di Masere il denuncia e giudica la nostra civiltà e se critica i difetti della vita e della società, lo fa spinta dal più libero e naturale sentimento umano, dall'impulso artistico in una parola e non già per acredine ideologica. L'altro libro è Il Sole, sempre pubblicato da Feltrinelli Comics, 19 euro. Anche qui troviamo una serie di illustrazioni prive di testo, realizzate con una tecnica che era stata abbandonata nel XVIII secolo, una particolare versione delle incisioni in legno, una forma espressiva nella quale, ricorda ancora Luca Pellegrini, dal tempo delle Bibbie popolari, delle passioni di Cristo, delle vite dei santi, nessuno più si era cimentato. E né Il Sole, le tavole sono 63 e, come ci viene spiegato, esse raccontano l'avventura tragicomica del protagonista, uscito letteralmente da un sogno dell'autore, del suo alter ego, alla ricerca spasmodica dell'assoluto, qui rappresentato dal Sole. Un'altra coppia, in questo caso una grande poetessa e un famoso illustratore, è quello che troviamo nel libro di Wisława Szymborska, di cui esce un testo in prosa, La prima fase è sempre la più difficile, che, ed è un peccato che l'editore non lo ricordi, il discorso di accettazione del premio Nobel per la letteratura che la poetessa polacca ricevette nel 1996. Il libro è arricchito dalle tavole di Guido Scarabottolo, noto illustratore e designer, e pubblicato da Terre di Mezzo, 12 euro. E le tavole di Scarabottolo sono esposte fino al 9 aprile allo spazio aperto San Fedele di Milano. Sulla Szymborska esce Nulla di ordinario di Michal Rusinek, scrittore nonché direttore della Fondazione Szymborska, pubblicato da Delphi, 228 pagine, 20 euro, curato da Andrea Ceccarelli. Per gli appassionati, e non sono pochi, della Szymborska, questo è un libro indispensabile perché l'autore giunse giovanissimo e quasi casualmente a farle da segretario. Il ragazzo era stato candidato per quell'incarico e si era recato a conoscere la poetessa proprio nel giorno in cui le viene assegnato il premio Nobel. Il telefono continua a squillare, la premiata non ne può più, l'apparecchio non si può staccare e allora Lužinek non fa altro che tranciare il filo con le forbici. La poetessa ne resta colpita, lo premia con un geniale e lo assume. E inizia così un periodo che sarebbe durato più di 15 anni e che qui viene ricordato con affetto e partecipazione, offrendoci un ritratto spesso sorprendente di Szymborska, delle sue passioni, delle sue abitudini, dei suoi gusti e delle sue manie. E si parla naturalmente anche di questo discorso di cui ho parlato prima, cioè del discorso di accettazione per il premio Nobel. Dice l'autore, la signora Wisława continuava a temere che il discorso sia troppo corto, ma ripete che i discorsi pubblici non sono il suo genere preferito. E poi ricorda la polemica che aveva suscitato in Polonia proprio il passo di questo discorso nel quale la poetessa proclama la sua convinzione di quanto sia importante il non sapere, che adesso vi ricordo. Un brano del suo discorso riguarda il non sapere. Per questo apprezzo tanto due piccole paroline. Non so. Piccole, ma alate. Parole che estendono la nostra vita in territori situati dentro noi stessi e in territori in cui è sospesa la nostra minuscola terra. Se Isaac Newton non si fosse detto «non so», le mele nel giardino sarebbero potute cadere davanti ai suoi occhi come grandine e lui, nel migliore dei casi, si sarebbe chinato a raccoglierle, mangiandole con gusto. Se la mia connazionale, Maria Sklodowska-Curie, non si fosse detta «non so», sarebbe sicuramente diventata insegnante di chimica in un convitto per signorine di buona famiglia e avrebbe trascorso la vita svolgendo questa attività, peraltro onesta. Ma si ripeteva «non so» e proprio queste parole la condussero e per due volte a Stoccolma, dove vengono insignite del premio Nobel persone dall'animo inquieto perennemente alla ricerca di qualcosa. Anche il poeta, se è un vero poeta, deve ripetere di continuo a se stesso «non so». Sul personaggio citato in queste righe dalla Skinbowska, e cioè Maria Curie, nata Maria Sklodowska, esce il film omonimo di Marie Noël, in cui la grande scienziata, due volte premio Nobel, è interpretata da Caroline Guska. Ricordo a questo punto un'altra poetessa, questa italiana, Alda Merini, col libro di Edi Natali, che è una teologa e che ha scritto Se cantarmi può solo Dio, la poesia Le notti di Alda Merini, pubblicata da San Paolo, 264 pagine, 19 euro, un libro che, come spiega nella prefazione Arnoldo Mosca Mondadori, vuole entrare nelle profondità dell'anima di Alda Merini e realizzare nello stesso tempo un lavoro di autentica narrazione e ricostruzione della poetica e della storia umana della grande poetessa, mentre l'autrice aggiunge di voler concentrare l'attenzione sulla dimensione mistica e sull'insistita evocazione della religione cristiana nell'esperienza esistenziale e poetica della poetessa, sull'aspetto antropologico, nell'attenzione all'uomo, nella complessità del suo esser fralezza, colto da uno sguardo non edulcorato ma disincantato. E questi versi di Merini che adesso vi propongo confermano l'approccio di Natali. Per poter generare poesia, scrive la Merini, basta vedere qualcosa che reca la tua impronta. E noi siamo pieni delle tue impronte, come se tu fossi passato in ogni cosa a lasciare i segni visibili del tuo potere. La poetessa percepisce l'uomo contemporaneo come stanco e senza speranze, posto su una traiettoria ai cui estremi sono la vita e la morte. Ma se è vero che dall'estremità umana egli si vede procedere verso la morte, dall'estremità divina si vede allontanare dalla morte per giungere nella pienezza della vita. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo parlato di poesia, quindi vi propongo un libro di Filastrocche e tutti i miei animali, illustrato da David Rischi, pubblicato da M, 16,90 €, che è un libro di grande formato con gli animali più familiari presentati ai più piccoli in versi e immagini. Con questo ringrazio Luca Cremonese in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.